Ieri al cimitero monumentale di Milano ho incontrato Salvatore Quasimodo e Alda Merini, Toscanini, Alessandro Manzoni. E tutti mi hanno fatto riflettere su come, anche se sono morti, quando si parla di loro, se ne parla al presente. Mentre delle persone normali si parla al passato. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti del 1 di novembre del 2010. Sono Matteo Caccia e sono qui. Caro Matteo, devo ringraziarti per una puntata. La puntata sulla tua maestra. Ti ascolto in podcast e quindi non posso intervenire in diretta. Avrei voluto farlo però. Ti avrei raccontato che mentre ascoltavo si è aperta una di quelle innumerevoli scatoline cinesi che risiedono negli angoli più remoti della nostra mente. Succede a tutti che in certe notti agganci un pensiero, un ricordo dentro la scatola principale, e questo ti porta ad un altro, un po' più nascosto. Così passano le ore e ti ritrovi in un dormiveglio impegnato ad aprire scatoline con dentro ricordi antichi, non necessariamente rimossi dalla psiche, semplicemente dimenticati, o per meglio dire archiviati. Sentendoti parlare di maestre elementari, di punizioni, di prevaricazioni, di incomunicabilità, mi è tornata in mente la mia maestra delle elementari. Ero al computer e così ho voluto fare una ricerca. Mi dicevo, ma dai, figurati, sono passati 35 anni, è impossibile, era una maestra qualunque. E invece, eccola lì. Era defilata a margine di una foto dentro ad un PDF di un tizio, credo importante, che ha scritto la storia della sua carriera scolastica dall'asilo alle lauree. Un'unica foto, ma mi ha lasciato di stucco. Ho sentito la sua voce fredda, il suo alito di sigaretta, il rumore dei tacchi nel corridoio e il frusciare del foulard un po' stantio che scivolava via dal cappotto inumidito nelle mattine d'inverno. Mi è tornato in mente il suo fanatismo religioso che contrastava con il distacco e il disprezzo, con il gelo che frapponeva tra noi e lei. Vada bene, non parlo di punizioni corporali, eh? No. Peggio. 5 anni di subordinazione e sottile disprezzo per noi piccoli inferiori. Guardando quegli occhietti neri in quella foto, credo di avere capito alcune cose su di me, oggi. Pur essendo una persona che non farebbe male ad una mosca, mi rimprovero sempre di non provare, e quindi di non mostrare, quella benevolente, affettuosa indulgenza nei confronti dei bambini. Insomma, non sono il tipo di uomo che si spertica e si annulla davanti al piccolino di turno. Amo mio figlio, ma anche con lui certe volte sono un giudice troppo severo, poco incline a quell'indulgenza che fa di un uomo adulto un porto sicuro. Ho 46 anni, quindi capisci quante scatoline si sono dischiuse in modo quasi simultaneo alla vista di quella foto. Sono reso conto che quegli occhi neri, vuoti, mi hanno continuato a guardare per tutto questo tempo. Spesso mi rimprovero di non essere un padre migliore, mi domando il perché di questa sottile insofferenza, di questa mancanza di struggimento. Eccolo. Solo adesso ho capito che quella persona, in silenzio, ha trasmesso giorno per giorno, per 5 anni, il suo solito messaggio. Io sono io, e voi, bambini, non siete un cazzo. Naturalmente poi l'amore dei miei genitori ha mitigato e contrastato gli effetti di quel messaggio. L'amore di mia moglie, di mio figlio, degli amici è stato un potente antidoto a quel terribile insegnamento, eppure qualcosa ha scavato. Oggi, grazie a quella trasmissione, ho rispolverato quella scatolina e credo di essermi dato qualche risposta. Oggi, quando un capriccio di troppo o una sfida adolescenziale mi porterebbero a tagliare corto, appellandomi a quel terribile io sono io e voi, ecco, oggi so che reagirò in modo diverso perché mi ricordo adesso di quanto odiosi siano stati gli adulti agli occhi dei giovani quando tagliano corto. I bambini e i ragazzi hanno solo bisogno di ascolto. L'ho sempre saputo, talvolta non ho saputo farlo ed oggi so il perché. Io sono qui, davanti al mio computer. Ciao, Fabio. Questa è una mail, è una lunga mail, in realtà era ancora più lunga, però sono riuscito a tagliare l'essenziale, altrimenti non ne veniva fuori il fulcro. Che mi ha scritto Fabio, che è una persona che ascolta il programma, come dice nella mail, in podcast, e che si riferisce alla puntata in cui avevo incontrato la mia maestra delle elementari. Mi fanno effetto queste mail per un semplice motivo, perché sono delle piccole storie che nascono dalle mie piccole storie, e quindi mi dà conforto il fatto di sapere che la mia piccola storia che tutti i giorni racconto in diretta possa servire anche a qualcosa, piccolo o grande che sia. Io sono qui, chiocciolaradio24.it, se volete fare come Fabio e scrivermi gli insulti, no, quelli arrivano già al 349-238-6666. La mail, se avete voglia, è solo per raccontarvi eventualmente le piccole storie che vi vengono in mente ascoltando oppure no questo programma. E invece il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui, 800-24-0024, 349-238-6666. Ho dato tutto, tutto quello che dovevo dare l'ho dato, tutti i riferimenti. Musica, mi verrebbe da dire. No, era una battuta, Robert. Torniamo alla base di prima. Vedi, t'ho fregato. Ieri sono andato al cimitero, perché oggi sapevo che sarei stato in onda in diretta e quindi mi sono portato avanti. Sono andato al cimitero e poi sono andato a trovare mia sorella in questo paesino dove abita con suo marito, ormai sono sposati, ancora non riesco a mettermelo in testa, ed è un paesino sopra il Lago Maggiore. Pioveva, diluviava, esattamente come oggi. Mi sono stupito perché era da un po' di tempo che non andavo a trovarli, forse dal matrimonio credo, quindi da luglio. Beh, insomma non è importante questo. La cosa importante è che andandoci ho trovato un sacco di segnali che indicavano il paese. Il paese è un paesino piccolo, è di credo 500 abitanti, si chiama Da Niente, e prima era segnato solo all'ultimo svincolo, no? Per quella regola lì che i paesi piccoli sono segnati solo all'ultimo momento. Invece i cartelli cominciavano a essere molto prima, addirittura sull'autostrada. Quando sono arrivato ho capito il perché. Perché nel cimitero del paese sono sepolti due personaggi famosi. Uno è Felice Cavallotti, che è un politico, fondamentalmente. È fondamentalmente un politico, a differenza di quanto suggerisce Guido Scotti di là dal vetro. Credo adesso, qua ci va tutta la mia ignoranza, abbia a che fare con la fondazione dei radicali, del radicalismo. Comunque è un politico importante, ci sono tante piazze, tanti... Risorgimento. No, non sono sicuro. Direi Wikipedia immediatamente, grazie. Oltre a lui è sepolto però nel cimitero di Da Niente Mike Buongiorno. Da quando è mancato Mike Buongiorno e da quando è sepolto al cimitero di Da Niente, questo piccolo paesino sopra la Rona, sopra il Lago Maggiore, non solo sono aumentati i cartelli per raggiungere il paese, ma ci sono delle comitive di persone che vanno a trovare Mike Buongiorno, o meglio, vanno a trovare la sua tomba. Addirittura, mentre arrivavo, ho visto un autobus che era, in realtà, sapete quelle gite che non so se esistono ancora, quelle gite per cui tu a 19,90 euro fai pranzo al sacco e vai. Ecco, non era previsto la gita al cimitero di Da Niente, ma le persone che si trovano sull'autobus hanno pregato l'autista di accompagnarli al cimitero per vedere la tomba di Mike Buongiorno. 800240024 349-238-6666. Non solo quelli che sono andati al cimitero di Da Niente, ma se vi è capitato, come è capitato, perché i messaggi sono arrivati anche prima su Facebook, di andare a trovare un vostro idolo in un cimitero, magari apposta, magari anche no, però se vi è capitato di andare in un cimitero in giro per l'Italia o in giro per l'Europa a trovare un personaggio famoso che a voi stava a cuore, me lo raccontate all'800240024. Allora, è troppo facile. Jim Morrison è troppo facile, ok? Jim Morrison, ce n'è anche un altro troppo facile che è arrivato dai messaggi. Oscar Wilde, anche Oscar Wilde, ma forse perché è sepolto nello stesso cimitero di Jim Morrison, credo a Parigi. Perché Jim Morrison, direi, dei 30 messaggi che sono arrivati, almeno 15 sono andati a trovare Jim Morrison, e tutti a 19 anni. Evidentemente c'è un'età precisa. E poi qualcuno che invece è andato, ad esempio, Alessandro, è andato a Vienna a trovare Falco. Falco, Der Kommissar, lo ricordo, che è morto. Perché uno dice, toh, Falco è morto, per forza, perché è al cimitero di Vienna, nella sezione Musiker, insieme a Beethoven, Schubert e Strauss. Però lui è andato a trovare Falco. Poi è andato a Parigi a trovare Baudelaire, Man Ray e ovviamente Jim Morrison. Anna è andata a trovare Camus a Lord Marraine l'estate scorsa. Sandro è andato ad Arlington, cioè a Washington, e ha visitato le tombe di John Fitzgerald Kennedy. Dice, è bellissima per quanto possa essere una tomba, in marmo bianco molto semplice, con indicate solo l'anno di nascita e di morte, con una fiamma alimentata perennemente. E poi, sempre nello stesso cimitero, anche Joe Louis, il famoso pugile. Angelica dice, Freddie Mercury è stato cremato, purtroppo, altrimenti sarà andato... Beh, ma ci avrà un posto in cui c'è una urna? No, viene dispersa nell'aria, nel mare. Deborah Jim Morrison, Davide Oscar Wilde, Luca Jim Morrison anche lui, e poi scusate, Fabio è andato ad esempio a Casarsa della Delizia a trovare Pasolini, e poi è andato, Fabio non sta bene evidentemente, Fabio è stato a Merten, un paesino tra Bonn e Colonia, a trovare Henrik Böll. 800240024 349-238-6666. Di morti si parla, ma solo di morti famosi. A me ieri invece è andata così. Io non è che sia uno che si disinteressa delle vacanze. Non sono così ipocrita da pensare che tutti i giorni sono uguali, quelli in cui lavori o in cui invece sei in ferie. Solo che non sono bravo a organizzarmi, ve l'ho già raccontato. E quindi questo ponte, anzi questo weekend lungo, mi ha un po' preso di sorpresa. Ecco perché non sono partito per le capitali europee o per le terme, come invece altri qui in radio hanno fatto. E allora, visto che sapevo che oggi sarei stato qui in onda, ho fatto finta che il 31 fosse l'1. E ieri ho fatto come se fosse vacanza. Quindi sono uscito di casa, sono salito sulla mia macchina e sono partito. E già stare lì dentro ad ascoltare la radio mi dava una soddisfazione enorme. Secondo me, a parte quando usi le cuffiette, non c'è migliore situazione di ascolto della macchina. E la mia è anche un impianto di tutto rispetto. Ecco, dopo un'oretta però che ero lì fermo, ho capito che era il caso di accendere il motore e muoverla, sta automobile. Andare in giro per la città è una cosa che mi è sempre piaciuto. La preferisco con la Vespa o a piedi, ma anche in macchina se piove non è male. Ieri il tempo qui a Milano era terribile, come oggi, e le strade erano praticamente deserte. Solo che dalle parti di San Siro e poi di Viale Certosa, il traffico improvvisamente si è fatto quasi paradossale. Cioè, in pratica c'era un ingorgo in una città vuota. Lo pensate tutti, ho pensato a una manifestazione, a un incidente, a una fuga di gas. Ci ho messo un po' a capire che semplicemente in molti avevano avuto la mia stessa idea. E che quella gente elegante seduta in auto di fianco a me stavano andando tutte al cimitero maggiore. Una marea umana di persone che vanno a trovare i propri parenti o i propri amici, che non ci sono più. Ecco, ero finto esattamente lì in mezzo. Allora ho pensato che anche se i miei parenti sono sepolti a Romentino e non qui a Milano, un bel giro al cimitero monumentale me lo potevo pure fare. Milano, per chi non lo sapesse, ha diversi cimiteri. E il monumentale, che è in centro città, è quello che accoglie i personaggi più famosi, in cui le tombe sono splendidamente pensate, sono disegnate, poi sono state fabbricate. Sono delle vere e proprie sculture di artisti che sono messe al servizio delle famiglie più ricche, quelle che hanno un doppio cognome, no? Quelle che in questa città oppure di questa città alla fine hanno fatto la fortuna. Per quanta gente ci sia, un cimitero rimane sempre un'oasi di pace in una città. Entrare al monumentale è stato rasserenante, dopo tutta la trafila per cercare parcheggio e gli ingorghi vari in giro per la città. Con 5 euro mi sono comprato un ombrello per ripararmi dalla pioggia e con 10 un mazzo di fiori per non sembrare fuori luogo. Mi sono avviato tra i cipressi, passeggiando per i vialetti, curiosando sulle lapidi in cerca di nomi illustri e favoleggiando delle storie. Il cimitero monumentale è un posto magnifico. Devo tornarci più spesso. Mi infonde un senso di serenità. È strano perché non ci percepisco tristezza, ma una specie di senso di quiete che quasi mi commuove. Sì, certo, io non ho dei parenti sepolti qui, e questo fa la differenza, effettivamente. Però i cimiteri in generale, io me li immagino sempre come di luoghi lugubri, e nel ricordarti che quella è la fine di tutti, ti suggeriscono anche l'angoscia del tempo che passa. A maggior ragione il monumentale, avrei pensato, no? Dove scopri che, per quanto tu sia stato famoso, ricco, geniale, quando arriva la tua ora, sei uguale a tutti gli altri. E invece non so perché, ma tutto ciò mi rasserenava. E forse per via della gente che passeggiava, dei fiori colorati, mi sembrava quasi una festa, che in fondo dovrebbe essere così, no? La festa dei morti. Così alla fine di tutto il ragionamento mi sono ritrovato con un gran sorriso. Che girare sorridendo per un cimitero può sembrare da deficienti, effettivamente, però non riuscivo a togliermelo dalla faccia. Mi ci sono fermato più di 2 ore al monumentale. Ho incontrato nomi illustri, di fronte ai quali mi sono anche fermato per scambiare 2 parole. Sì, perché a volte io parlo da solo, però secondo me lo fanno tutti alla fine. Parlare con un cane in fondo, no? Se ci pensi, lo fanno tutti quelli che ce l'hanno, però nessuno gli dice niente. Sì, che va bene, sembra che ti capisca, però insomma, mai visto un cane che risponde. Comunque, quando ho incontrato Marinetti, ad esempio, gli ho detto quello che pensavo, che secondo me era un genio, che però io avevo sempre preferito Boccioni. E poi altri giri e altri incontri. Ci sono tutte le famiglie importanti di Milano al Monumentale. Cosa non è che mi dica granché. Poi però, continuando, ho incontrato Salvatore Quasimodo, Alda Merini, Toscanini, Alessandro Manzoni. Ecco, lì tutti mi hanno fatto riflettere su come quando si parla di loro se ne parla sempre al presente, anche se sono morti. Mentre delle persone normali che non ci sono più si parla sempre al passato. Tra gli altri al Monumentale c'è anche Michele Sindona. Nella passeggiata poi mi sono imbattuto in Alberto Ascari e Vladimir Horowitz. Horowitz l'avevo visto suonare da giovane e ricordo che mi aveva commosso. Poi a un certo punto mi sono ricordato che doveva esserci anche Evita Peron, da qualche parte, sepolta con uno pseudonimo. Solo che non mi ricordavo più se era vero o se me l'ero sognato. Allora ho ceduto e ho usato l'aiuto da casa, come fa Gerry Scotti. Ho preso il cellulare e ho chiamato mia madre, che sa sempre tutto. E lei mi ha confermato che sì, era stata sepolta lì, in origine. Ma poi la salma era stata riportata a Buenos Aires. Dopo averlo girato quasi tutto, tornando verso l'uscita, mi sono imbattuto in una zona dove non c'erano né croci né simboli religiosi. E ho scoperto che il Monumentale ha una sezione speciale per coloro i quali non appartengono alla religione cattolica. E lì c'è il ricordo dei milanesi che sono stati imprigionati e poi uccisi nei campi di concentramento. E mi è parso un atto di civiltà, che non mi aspettavo. Mentre stavo per uscire, poi mi è tornato in mente il mio viaggio in Messico. Tutte quelle scene di morti che ritornano vivi per accettare le offerte, il calore dei parenti, gli amici. Il tutto corredato da balli, canti, pupazzi che raffigurano scheletri colorati, che ridono. Una festa dei morti, nella quale ero finito per caso, però che era stata splendida, quasi sorprendente. E lì, ripensandoci, ho capito che, alla fine, a parlarne mangiando, bevendo e danzando tutti insieme, perfino con la morte si può convivere. Quasi me l'ero dimenticato quel viaggio e non pensavo che la gita al cimitero mi avrebbe messo appetito. Eppure, pensandoci, mi era pure venuta fame. Quindi sono uscito per cercarmi qualcosa da mangiare. Solo che quando sono uscito, un po' del buon umore si è spento. La città era la solita, che poi è quella di oggi. Cupa, rumorosa, puzzolente, inondata. La città che non capisco come, però ci sto. La città che è brutta ma che mi piace. Dove l'unico colore che si vede sono i sacchetti azzurri dei cinesi che in bicicletta trasportano qualsiasi roba, pelletteria, vestiti. Il Monumentale è proprio lì, è vicino a Paolo Sarpi, la zona cinese. Loro i morti sembra che non ce li abbiano nemmeno. Io invece sì. E visto che sapevo che oggi sarei stato in onda, sono salito in auto, ho acceso la radio e sono andato a trovarli. Questi sono i Noah and the Whale, il pezzo si chiama Tu Atoms in a Molecule, le trovate però, come, visto come lo chiedete spesso, tutti i giorni ci sono i brani che mandiamo sul sito di Radio 24, alla pagina di Io Sono Qui, www.radio24.it/, si dice ancora slash? Vale ancora, è legale. / Io sono qui. Si può fare. 349-238-6666. Sono andato all'isola di Martha's Vineyard o Vineyard a vedere la tomba di John Belushi. Spesso ci sono stato. Due volte in 50 anni sono andato a trovare Sant'Ambrogio nell'omonima basilica, Fulvio. Sono andato a trovare Carlo Marx a Londra 20 anni fa. E poi Mussolini a Predappio, Massimo di Como e Sandro Pertini a Stella, provincia di Savona. Ci metterò minuscolo di un paesino sull'Appennino. Stefano, 800240024 349-238-6666. Sono già arrivate delle telefonate e presto le prenderò, credo dopo la borsa però, perché c'è una cosa in sospeso. Visto che mi piacciono le storie, mi piace sapere come vanno a finire, noi venerdì ci siamo lasciati più o meno in questo modo qui. È una mini crociera di 3 giorni e 2 notti in occasione di questo ponte. Destinazione Dalmazia, Dubrovnik. Ho deciso di proporlo ai miei amici. Sì. E hanno accettato in 5. Salutami. C'è una cabina spaiata o sbaglio? No, siamo 3 donne e 3 maschi. Appunto, questo vuol dire che se ci sono 3 doppie, ce n'è una in cui c'è un maschio e una femmina. Tutte e 3, sono un maschio e una femmina. Ah, ok. Lui si chiama Carlo, partiva venerdì per questa mini crociera Dubrovnik ed è tornato oggi, giusto Carlo? Sì, sono qua. Come stai? Io bene, tu? Bene, bene, che accento che ho in radio. Guarda, mi sa che ce l'hai sempre l'accento, è solo che in radio lo senti, Carlo. Funziona così di solito. Senti, ma sei bloccato, so che le autostrade da quelle parti sono sott'acqua. È un disastro, alla fine del mondo è molto vicina. Dove sei adesso? Siamo in Trentino, sono a Rovereto. Ma scusami, ah, perché tu sei di Rovereto? Io sì, sì, sì. E sei riuscito a tornare, comunque le strade sono pulite? Sì, sì, allora, ieri siamo tornati ieri, era tutto a posto, il tempo pioveva, ma niente di che. oggi, fra stasera e fra ieri sera e oggi è venuto giù il finimondo. Bene, ma parliamo invece di questa crociera, velocemente, bellissimo, Carlo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Dimmi, me la consigli, per forza, le vendi tu le crociere. Ma che sei? Dimmi due robe che ti sono rimaste impresse, a parte le cabine spaiate. Esatto. No, beh, sicuramente il centro benessere e poi il servizio che hai a bordo. Ma scusa, ma Carlo, ma tu c'hai, quanti anni c'hai? 28, 29? 26. 26, il centro benessere. Sì, bellissimo, bellissimo. Ma cosa hai fatto? Massaggi, sauna? No, ma della verità siamo rimasti ben poco, perché avevamo un sacco di robe da fare, quindi abbiamo fatto un idromassaggio veloce, sauna e basta. Siamo rimasti tutto un tre quarti d'ora. Senti, discoteca, roba del genere? Discoteca, sì, bellissimo anche quello. Siamo rimasti, non pensavo che sulle crociere avessero discoteche del genere. Ma il mare com'era? Brutto tempo? Il mare bellissimo. No, era bel tempo. Finché siamo arrivati a Venezia è stato sempre bel tempo con sole. Dubrovnik? Bellissima. La cabina doppia? Avevamo il balcone. Avevamo il balcone, Carlo, guarda, sei magnifico. Ti ringrazio. Fai una roba, visto che c'è la borsa. Adesso la borsa. Vai, bravo. Ciao Carlo, grazie. Saluto mio fratello Costantino. Ciao. La borsa e poi sono qui. Io sono qui. C'è Dexter. Un bel ragazzo non troppo sveglio che ama le donne e non ama studiare. Si laurea al college con il minimo dei voti e non ha idea di cosa farà della sua vita post laurea. E poi c'è Emma. Sono tutte e due nella foto. Emma è sexy ma non è bellissima. È colta, scrive poesie e sogna diventare una grande scrittrice. Si laurea, ovviamente, con il massimo dei voti. Nella foto Emma e Dexter il 15 di luglio si conoscono, l'ultimo giorno di università, e vanno a letto insieme. Si divertono, chiacchierano, ma mentre Emma ha una bella cotta per Dexter, Dexter si chiede come mai sia finito a letto con una come Emma. Nella foto dopo la laurea la storia tra Dexter ed Emma culmina in una grandiosa amicizia, ma poi le loro strade si separano. Dexter diventa una star della televisione, mentre Emma lavora come cameriera in uno squallido ristorante di Londra. E poi, nella foto, per puro caso, il 15 di luglio di ogni anno, Dexter penserà ad Emma ed Emma penserà a Dexter. Penseranno l'uno all'altra, qualche volta si incontreranno, altre litigheranno e altre ancora si chiederanno in silenzio se quello non sia vero amore. E nella foto nessuno dei due renderà esplicito questo pensiero e vi terranno sulla corda per molte, moltissime pagine. Francesca Fontana, 27 anni, Edimburgo, 3 giugno 2010. Francesca ed Emiliano come Emma e Dexter nel romanzo di Nichols. Io sono qui. Questa va forse un pochettino più spiegata delle altre, perché come già era successo con una ragazza che aveva mandato la foto della copertina di un libro, Francesca Fontana ha mandato la foto di un angolo della copertina di un libro che è Un giorno di David Nichols per Neri Pozza, credo, giusto, l'editore, e una cartolina di Edimburgo. Il romanzo si svolge a Edimburgo, è della storia che vi ho raccontato prima, e lei credo lo stesse leggendo mentre è andata a Edimburgo, o c'è andata apposta perché aveva letto è una forma di turismo letterario che è un po' come una forma di turismo invece cimiteriale, quella che stiamo mappando oggi. E ce n'è parecchio. Ciao Matteo, io sono stato a trovare la tomba di Bob Marley in Giamaica, è stata davvero un'avventura. Alessandro. Giuliana è stata a trovare Marco Biagi a Bologna. Alberto invece è andato lo scorso gennaio. Tra l'altro Alberto scrive di sé in terza persona al messaggio, non scrive sono andato ma scrive proprio così: Alberto è andato lo scorso gennaio a trovare la tomba di Henry David Thoreau nei boschi di Concord in Massachusetts. E poi Stefano, Ernesto Che Guevara purtroppo non lo possiamo andare a trovare, saresti gentile a spiegare il perché? Io? Perché? Non lo so perché non si può. Ah, perché non si trova. No, come non si trova il corpo? Sì? Perché non si trova il corpo? Cioè perché non è sepolto? O forse. Non lo so perché. Guarda, Stefano, saresti gentile tu a spiegarmi il perché. Sono andato a trovare a Mariano Comense Fabio Casertelli, il ciclista che morì nel Tour de France nel 95. E poi sono andato a Parigi a trovare Dalida e Stendhal. 800240024. Per raccontare le visite dei morti famosi, più che personaggi, morti famosi, insomma, sono morti e sono famosi. Andiamo a Roma da Davide. Pronto, Davide? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Tutto bene, tu? Sei sicuro? Non ti sento proprio. Piove a Roma? È un tempo come dalle mie parti, in Piemonte. No, scusami, non ho capito. Particolare. Ma tu sei piemontese, Davide? Sono piemontese che vivo a Roma. E che ci fai a Roma? Lavoro. No, va bene, ti ringrazio. Ma che lavoro fai a Roma? Il vetraio. In che senso il vetraio? Hai presente i vetri? Certo, ce li ho presenti i vetri, ma fai i vetri per le finestre o fai i vetri... Per le finestre, per le docce, per le vetrine, tutto questo. Sei un artigiano, insomma. Sì, sì, sì. Senti, e invece tu dove sei stato a fare visita e a chi? A Carmelo Bene a Otranto. Ma eri apposta ad Otranto oppure ci sei andato? Ci sono andato apposta. E com'è la tomba di Carmelo Bene? È barocca? È come... semplicissima. Davvero? È questo che mi ha sconvolto. Guarda, sconvolge un po' anche me a sentirmelo dire. Cioè... da un lato c'è Carmelo Bene senza attore. Da un lato suo padre e dall'altro lato sua madre. Ah, cioè che non c'è semplicemente l'identificazione, c'è solo Carmelo Bene e non... Carmelo Bene, il numero, la data, la data, nascita, è di, la morte? Data di morte e i suoi lati e i suoi genitori. Senti Davide, e perché un piemontese che fa il vetraio a Roma va a Otranto a trovare la Carmelo Bene al cimitero? A parte il fatto che un piemontese che fa il vetraio a Roma è un pazzo. Va bene, e su questo l'hai detto tu, Davide, e quindi non entro nel merito. E quindi e poi sui 17 anni incontrai il Pinocchio fatto da Carmelo Bene e mi rivelò tutta la vita. Certo, quindi tu eri andato, l'avevi avuto modo di vederlo dal vivo anche? Sì, sì, sì. Cosa avevi visto di Carmelo Bene? Il Pinocchio, il Macbeth, l'Omelette for Hamlet, Lectura Dantis, Macbeth Horror Show... tutte le sue cose da quella data alla fine. Guarda, io ho visto solo una cosa di Carmelo Bene, non mi ricordo nemmeno più il titolo, so che lui entrava ed era completamente fasciato in faccia e diceva l'attore non erano deve essere un attore. Canti, i canti orfici, bravissimo. Erano i canti orfici di Dino Campani. I canti orfici. E quando frequentavo il teatro e la gente che lavorava in teatro, uno che era un tecnico che aveva lavorato con lui, in uno spettacolo con lui e Leo De Berardinis, mi raccontò che Leo De Berardinis arrivava 3 ore prima in teatro, si preparava, faceva riscaldamento vocale e fisico per 3 ore. Carmelo Bene arrivava 5 minuti prima, saliva sul palco e faceva "Mi sono pronto". Grazie mille Davide, buona giornata, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo, attenzione, abbiamo la risposta per il motivo per cui Che Guevara non si può vedere. Il giorno successivo Che Guevara venne ucciso e mutilato ai polsi e alle caviglie nella scuola del villaggio. Il suo cadavere, dopo essere stato esposto al pubblico a Valle Grande, fu sepolto in un luogo segreto ritrovato da una missione di antropologi forensi argentini e cubani, autorizzata dal governo boliviano di Sanchez de Lozada nel 1997. Da allora i suoi resti si trovano nel mausoleo di Santa Clara a Cuba. Quindi, perché non si possono vedere? Andrea, come si chiamava? Stefano, vai a Cuba e te li guardi. E invece noi andiamo a vedere Furio da Torino. Pronto, Furio? Pronto. Ciao, come stai? Bene, grazie. Furio, tu sei di Torino e fai a Torino? Sì. Cosa? Sì. Sono due le tombe per me importanti. No, aspetta, Furio, volevo sapere che cosa fai a Torino. Me lo puoi dire o è un segreto? No. In questo momento sono in un capannone che carico un furgone. Ah, ok, perfetto. Ma anche il 1° di novembre? Sì. Caricare furgoni, cioè, se non ci si ferma mai. Sono due, no. Dicevi, scusami, sono due le persone che sei andata a trovare. Sì, una per me è stato un vero e proprio pellegrinaggio, quello a Graceland a Memphis sulla tomba di Elvis. Quando? L'anno scorso. Ma l'altro invece 20 anni fa, quando ero ancora giovane rivoluzionario, sulla tomba di Marx a Londra. Com'è la tomba di Marx a Londra? Ironia della sorte, in un cimitero privato e paghi per entrare. No, per non è vero. Sì, stupendamente, è una cosa veramente ironica. Ed è un grosso cubo con sopra un enorme capoccione di Marx stesso, proprio l'immagine che abbiamo noi. E invece, scusami Furio, quella di Elvis? Beh, quella di Elvis è un'esperienza, è veramente emozionante, perché è nel retro, nel giardino della sua villa, appunto a Graceland, dove è sepolto lui e anche la famiglia, e diciamo tutta la villa è un suo ricordo, è un mausoleo. Immagino, immagino. Senti Furio, ti ringrazio, dimmi solo, dov'è che devi portare questi pacchi che stai caricando sul furgone? A Mantova domani mattina. E che cosa c'è in questi pacchi? Non si può sapere. Addirittura? Ma dammi un indizio, è cibo, è roba deteriorabile. È cibo, va bene. Furio, grazie mille, buona giornata. Complimenti ancora, bravissimo. Ciao, alla prossima, grazie. Noi siamo stati a Los Angeles per Mary. Per Mary? Chi è Mary? Manca un pezzo del messaggio. E poi il mio preferito è: io sono stato vicino a Monaco a trovare il mio idolo Horst Tappert, l'ispettore Derrick. 800240024. Andiamo da Ciro a Napoli. Pronto Ciro? Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Io ero a Venezia su un barcone con un mio amico e mi disse: guarda, lì c'è Elenio Herrera. Ho detto: scendiamo qui e andiamo a fargli visita. Nel cimitero a Venezia? A Venezia. Però mi devi credere, mi ha fatto tenerezza perché è quasi abbandonato. C'è solo un'anfora con dei fiori e sotto c'è un marmo con su scritto Elenio Herrera, poi tutto quello dove è nato, quello che c'è, però mi ha fatto ma scusami, ti ricordi in che cimitero di Venezia? Guarda, è su un isolotto, però non dirmi dove perché non lo so, è su una di quelle isole che è vicino Venezia. Va bene. Dove pure da un altro, tra virgolette, padiglione c'è pure Stravinsky, in quello stesso cimitero lì. Abbandonato pure lui? No, Stravinsky no, è tra virgolette più bella, mentre è molto modesta i fiori che ci sono da Elenio Herrera. Certo. Mentre poi, siccome sono di Napoli, spesso vado a far visita, tra virgolette, alla cappella di Totò, al cimitero di Napoli. Beh, però lui è il principe, per cui... Lui è il principe ed è nato pure nello stesso mio giorno, quindi... E poi è un grande. Guarda, mi dicono che al cimitero di San Michele si trova Elenio Herrera, nell'isola omonima della Laguna Veneta, posta tra Venezia e Murano. Grazie mille Ciro, buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Tra l'altro mi viene in mente che io, chiaramente come tutti, ho fatto questa forma di turismo cimiteriale con... Un paio d'anni fa sono andato prima all'Hotel Roma di Torino cercando di vedere qual era la camera in cui si era ucciso Cesare Pavese e poi di ritorno sono andato a Santo Stefano Belvo a vedere la sua casa e la tomba in cui lui è sepolto, e devo dire che ahimè sono entrambe una grossa delusione. Rimane su tutte chiaramente il bigliettino che lui ha lasciato nella sua camera d'albergo, dove dice: perdono a tutti chiedo perdono, va bene? Punto interrogativo, non fate troppe pettegolezzi. Sentiamo l'ultima telefonata, ce la facciamo al volo. Tiziano dice di sì. Ne andiamo a Roma da Umberto. Pronto Umberto? Ciao. Dovresti abbassare la radio, Umberto. Sì, la sto abbassando. Bravissimo. Dimmi chi sei andato a trovare e dove. Sono andato a trovare Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, che è un quartiere di Napoli. Che è il suo paese, no? Sì, è il paese di Massimo, ma io sono di Reggio Calabria. Ma adesso mi trovo a Roma perché domani vado a Londra a vedermi Tottenham Inter. Ah, hai capito. Già che ci sei, vai a trovare qualcun altro? No. Già Massimo Troisi è il massimo. Diciamo, lo immagino. Troisi o Massimo, si dice, quindi. Guarda, mi ricordo, a proposito, visto che siamo in vena di citazioni oggi, mi ricordo una delle battute più divertenti di Troisi, quando, non mi ricordo più in quale film, con la De Sio, lei gli dice: vuoi che ti dica tutta la verità? E lui risponde: no, guarda, stiamo così bene insieme. Esatto, ricomincio da tre. Bravo, grazie Umberto, ciao, alla prossima. Ciao. L'ultimo messaggio: siamo Antonella e Francesco di Novara. Ad agosto siamo andati a Providence a trovare Lovecraft, sepolto in un cimitero bellissimo. Chiudo con una citazione del nostro, cioè Lovecraft: non è morto ciò che in eterno giace, ma con il passare degli anni anche la morte può morire. Grazie a Roberto Scaltritti, a Guido Scotti, a Tiziano Bonini e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?